in primo piano. Leggere i giornali oggi è interessante perché le aperture sono tutte diversificate, non c'è un tema dominante e dunque andremo a vedere qualche curiosità che ci propongono. Ho una rapida carrellata dei titoli, tutti diversi. Il Corriere della Sera sceglie la tragedia che è successa in America. Esplode centrale americana, l'onda d'urto ha fatto tremare una città a 15 chilometri. Fortunatamente è stata una tragedia, ma abbiamo sentito sarebbero 5 le vittime definitive, non la tragedia epocale che insomma si era prefigurata almeno all'inizio. Repubblica, giustizia, la sfida di Alfano, Mancino sì all'immunità. Per La Stampa invece la vicenda iraniana con la sfida di Teheran, Ahmadinejad, andiamo avanti con l'uranio arricchito. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata, come sempre, al lunedì all'analisi dei dati. Un'interessante inchiesta che vedremo sugli iscritti agli albi professionali. La frenata dei professionisti, dentisti, medici e geometri, le categorie con la flessione maggiore. Poi vedremo anche altre aperture. C'è chi, come Il Messaggero, si dedica, si concentra sulle valanghe, le valanghe che hanno purtroppo portato a nuovi morti in montagna, carcere a chi provoca valanghe killer. Questa è l'apertura del Messaggero. Ma cominciamo dalla politica, che sicuramente ha vissuto il momento di maggior interesse ieri, quando il ministro Alfano è andato da Lucia Annunziata. In mezz'ora ha detto: Berlusconi non sfugge ai processi, verrà processato, ma dopo, una volta che insomma smetterà di governare. Tra l'altro, con Lucia Annunziata qualcuno ha notato che ha chiosato molto polemicamente: sempre che non si faccia un'altra legge ad personam. E Alfano, tra l'altro, che ha detto: tra legittimo impedimento e immunità parlamentare non c'è una scelta, perché sostanzialmente le stiamo portando avanti tutte e due. Infatti il Corriere della Sera: Alfano avanti su immunità e lodo bis. E, tra l'altro, un'intervista più interessante a riguardo la fa Repubblica, come detto lo mette anche in prima pagina. Chi intervista Repubblica? Intervista il vicepresidente del CSM, il numero 2 del CSM, vale a dire Nicola Mancino, colui che firmò nel 93 l'abolizione dell'autorizzazione a procedere sull'onda di Tangentopoli. Sapete che allora, sull'onda di Tangentopoli, che fu modificato quell'articolo 68 della Costituzione e dunque fu tolta l'immunità parlamentare che oggi si vuole ripristinare. Sì allo scudo per i parlamentari, ma con un quorum del 65%. L'apertura dunque di Mancino in questa intervista a Liana Milella, che trovate a pagina 3. Fu lui negli anni 90 a mettere su carta la necessità di abolire l'autorizzazione a procedere, ma ora Nicola Mancino dice è possibile tornare a quella immunità, ma un'immunità con paletti ben precisi e rigidi, dice Mancino. Innanzitutto che la proposta arrivi non dal governo ma dal Parlamento, poi che si preveda una maggioranza qualificata tra il 60 e il 65% per respingere le richieste di autorizzazione dei magistrati, e ai magistrati si deve dare comunque la possibilità di portare avanti le indagini. Tra l'altro Nicola Mancino dice: la modifica allora era diventata inevitabile sotto l'incalzare di Tangentopoli. Certo, la tutela della funzione parlamentare fu introdotta nella Carta Costituzionale, ma con uno spirito diverso. Lì c'era la saggezza del Costituente, mentre l'abuso era diventato ricorrente quando un'istanza approdava in Assemblea. Dice insomma Mancino: sono favorevole a ripristinare l'immunità se c'è la previsione di un quorum elevato, magari tra il 60 e il 65%, per negare l'autorizzazione una volta che le indagini sono completate. Io potrei anche convenire con la necessità di un ritocco all'attuale 68, cioè l'articolo 68. Ma c'è sempre un limite, non torniamo alla impunità a critica. Dunque, insomma, il vicepresidente del CSM, vale a dire l'organo di autogoverno dei giudici, dice sì, un'apertura con queste cautele. L'altro avvenimento politico del fine settimana, per la verità, è stato il congresso dell'Italia dei Valori, che ha riproclamato presidente Antonio Di Pietro. tutti i giornali, insomma, scrivono anche retroscena di quello che sarebbe anche un po' il sottotraccia, lo scontro tra le due anime del partito, di Pietro da una parte e Luigi De Magistris dall'altra. De Magistris che ha detto: appoggio Di Pietro ma ho 20 anni di meno, questo è il suo esordio al congresso del partito. Oh, c'è una persona che parla poco, sempre, storicamente, e che parla invece questa volta, accidenti, viene definita come una molto pacata, che parla pochissimo, non dice mai niente, ma ora che parla, sentite qui. Si tratta della moglie di Antonio Di Pietro, vale a dire Susanna Mazzoleni, bergamasca, titolare di uno studio legale. La intervista a Repubblica, dice, è stata silenziosa per la 3 giorni della convention del congresso dell'Italia dei Valori, non si è persa però neanche un minuto, severa padrona di casa nei suoi tailleur pantalone, cordiale vicina di posto dell'ospite Pierluigi Bersani. Ripeto, parla poco, ma sentiamo cosa dice. Intanto mettiamoci d'accordo su questa storia dell'anti-berlusconismo. Hanno ridotto a una caricatura l'opposizione dell'Italia dei Valori. Fosse per me, non perderei tutto questo tempo ad occuparmi di Berlusconi. Io lo disprezzo e basta. Ma Antonio che cosa deve fare? Dicono che sia ossessionato dal Cavaliere. Io invece sono convinta che se ci fosse qualcosa da salvare nell'esperienza di questo esecutivo, la salverebbe. Mi citi lei le cose positive, forse le escort o l'istituzione del processo breve? Insomma, in questa intervista Alessandra Longo di Repubblica parla così la moglie di Antonio Di Pietro. C'è anche tutta la vicenda di Di Pietro con le polemiche, perché rimangono le polemiche per l'apparizione di Gioacchino Genchi, vale a dire colui che, come funzionario di polizia, è collaboratore di molte procure, secondo molti è anche il grande intercettatore d'Italia, le polemiche le ricordate, è stato anche collaboratore tra l'altro dello stesso De Magistris, e si è presentato al congresso dell'Italia dei Valori, sostanzialmente ha detto, prendendo spunto da quelle immagini di YouTube che circolano, no? Quelle panzane un po' che si vedono, l'attentato a Berlusconi, insomma l'aggressione a Berlusconi, guardate qui dei fazzoletti strani comparsi, insomma forse è un po' una pantomima, ho usato questo termine, poi è rientrato, ha detto ma no, ma io mi riferivo alla scorta che non l'ha protetto, insomma il PDL apre il caso Genchi. Questo sul Corriere della Sera, rapporto inquietante con i PM. Tra l'altro c'è un'intervista a Clemente Mastella che dice: ci rendiamo conto, si è presentato a parlare a una platea congressuale un signore che ha intercettato mezza Italia e che illegalmente ha intercettato anche me e Di Pietro, solo che per quanto riguarda il sottoscritto si sono avviate inchieste, per il leader dell'Italia dei Valori no. E poi Clemente Mastella getta anche questa provocazione. Io vedo qualcosa di oscuro in tutto questo. Lo stesso Di Pietro, guarda caso, è quello che ha chiesto a De Magistris di candidarsi nel suo partito. Sta dicendo che Di Pietro è stato risparmiato dalle inchieste di De Magistris basate sulle intercettazioni di Genchi perché gli ha promesso una candidatura? Io non dico niente, Mastella in puro stile democristiano. Metto in fila fatti e parlerò quando i giudici vorranno ascoltarmi. Questo Clemente Mastella sul Corriere. E Berlusconi? Berlusconi per il momento, questo si legge sia sul Corriere che sul Giornale, è interessato pari ad altro. Intanto al pranzo di domani, in cui dovrebbe riunire ad Arcore i 5 figli, Berlusconi e i figli, il pranzo distensivo. A dire la verità, Angela Frenda scrive sul Corriere, si è ricamato molto su questo pranzo. Ovviamente si pensa che si parlerà anche della separazione dalla moglie, da Veronica Lario, perché tutto questo comporta anche la divisione dell'impero, insomma Marina, Pier Silvio, vale a dire i figli del primo matrimonio, Barbara, Eleonora e Luigi, i figli con Veronica Lario, avuti da Veronica Lario, dovrebbero ritrovarsi tutti, ed sarebbe la prima volta, anche se il Corriere dice non tutti hanno ancora confermato, sarebbe la prima volta, ma anche un messaggio da parte di Berlusconi, scrive il Corriere, un messaggio all'esterno per dire che i suoi 5 figli sono tutti solidali con lui. Intanto invece sul Giornale si scopre che Silvio Berlusconi starebbe meditando di lasciare come casa proprio la villa di Arcore e dovrebbe scegliere Villa Gernetto, che è a Lesmo. Lesmo è attaccato ad Arcole, peraltro, quindi sempre in Brianza. Silvio cambia casa, è tentato dalla nuova reggia. A metà strada tra Arcole e Macherio, Villa Gernetto a Lesmo potrebbe diventare la residenza privata di Berlusconi. Ma insomma, chi si interessa a queste cose ne trova oggi su Il Giornale. Mentre voglio leggere la prima pagina di Unità, perché parla sempre di politica, beni culturali S.P.A. È una notizia che viene lanciata solo dall'Unità, io non avevo ancora trovata, e riguarderebbe Bertolaso, il capo della protezione civile, per il quale Berlusconi ha detto ci vuole un ministero. Ebbene, secondo l'Unità, Bertolaso sostituirà Sandro Bondi alla cultura. L'uomo d'oro della protezione civile è dato per favorito per la successione a Bondi, ne scrive Bianca Di Giovanni a pagina 4. Sostanzialmente al Golden Boy serve il passo felpato del potere politico. Berlusconi l'ho già promesso, diventerà ministro, e il tam tam del palazzo insiste verso un'unica direzione: i beni culturali. Poi ci sono tutta un'analisi di questo, che cosa comporterà. Lasciamo la politica e veniamo ad altri temi. Voglio prendere la prima pagina del Sole 24 Ore, che come al solito fornisce i dati interessanti per al lunedì per leggere il nostro paese. Io vorrei partire non tanto dal titolo di apertura, che poi vedremo, la frenata dei professionisti, ma quello che troviamo poco sotto in prima pagina, perché a me inquieta un po'. Record per sfratti e ingiunzioni. Sostanzialmente la crisi economica entra nelle aule di giustizia. Secondo un'inchiesta del Sole 24 Ore c'è un incremento dell'attività giudiziaria legata alle difficoltà di pagamento. Un incremento notevole, pensato, l'anno scorso le istanze di fallimento sono cresciute del 23,5% rispetto al 2008. E poi anche i pignoramenti immobiliari sono cresciuti del 18,9%, gli sfratti per morosità il 14,6%. Sfratti e ingiunzioni, conti amari in tribunale, questo si legge a pagina 3, aumentano in tutta Italia i provvedimenti contro i morosi. Ed è un chiaro segnale, insomma, che la crisi, come scrive anche il Sole, è entrata anche in tribunale, cioè c'è difficoltà da parte di molti anche di pagare. A pagina 2, per esempio, l'affitto non pagato mette in emergenza 100.000 famiglie. E 9 convalide di sfratto su 10, tra l'altro, sono nelle città ad alta tensione abitativa. Insomma, più sfratti, si paga meno, forse per la crisi, forse qualcuno perché non paga di suo di solito. Ma certo, il dato che è analizzato poi a partire da Ancona per arrivare a Vicenza, insomma, interpellando un po' tutti i tribunali di tutta Italia, ci sono tutti i dati da verificare a pagina 3 del Sole 24 Ore. Così come altri dati interessanti li trovate a pagina 5, danno appunto lo spunto al titolo d'apertura, la frenata dei professionisti. Che succede? Il Sole 24 Ore ha raccolto i dati sugli iscritti dal 2005 al 2009 ai 10 albi più rappresentativi: farmacisti, psicologi, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, dentisti e geometri, e ha scoperto che c'è un calo sostanziale di iscritti. La frenata più brusca è per i dentisti, dopo i boom degli anni passati dovuti alla possibilità per i medici di accedere anche all'albo degli odontoiatri. Beh, i dentisti sono calati in questi anni del 40, adesso mi sono perso il dato, ma insomma il 40,5%, le iscrizioni che hanno fatto registrare più un calo. Ma anche un calo consistente per i geometri, per effetto della crisi, ma le previsioni in questo caso sono in rialzo per i prossimi anni alla luce della riforma degli istituti tecnici che è stata varata la scorsa settimana. Insomma, calano anche i commercialisti, che hanno avuto un picco nel 2008, si attestano alle cifre del 2005, 2006, 2007, ma comunque se volete scoprire di più anche per tutti coloro che ci ascoltano, sono professionisti, sono iscritti agli albi, oggi il Sole 24 Ore offre appunto questa lettura sul calo degli iscritti agli albi professionali. Lo trovate in apertura di prima pagina e poi all'interno a pagina 5. Allora, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi vedremo nuovi altri interessanti spunti che ci offrono i giornali. In primo piano, valanghe killer, 6 morti nel weekend. Questa è una notizia di cronaca che il Messaggero mette addirittura in prima pagina. Carcere a chi provoca valanghe killer. Questa è, diciamo, la novità. Ieri Sono stati mobilitati decine di volontari per la ricerca di dispersi. In tutti questi casi c'è la solita polemica. Insomma, spesso sono causate queste valanghe da comportamenti imprudenti da parte di sciatori, alpinisti che vanno dove non dovrebbero andare. E poi in tutto questo caso cosa succede? C'è la tragedia innanzitutto delle vite che vengono perse innanzitutto e poi anche quelle dei soccorsi, i costi. Tanto che su proposta di Antonino Dalì, presidente della Commissione Ambiente, è stato presentato un emendamento del governo su un provvedimento di legge che prevede il carcere per chi provoca in maniera imprudente le valanghe. Travolti e uccisi da una lastra di ghiaccio, lo trovate anche sulla Stampa, in Ossola, l'ultima tragedia del rialzo termico, e ecco qui il governo propone il carcere per chi provoca le valanghe. Vorrei fare un salto sul Sole 24 Ore ancora, perché si lega al nostro sondaggio, si lega bene al nostro sondaggio. Come detto, noi parliamo di immigrazione oggi, la proposta del permesso di soggiorno a punti che sta per essere messa a punto, per l'appunto, dal ministro Maroni e dal ministro Sacconi, l'hanno annunciato, vale a dire, funzionerà più o meno così, ma poi lo spiegheremo alle 8.30, permesso, l'immigrato che arriva firma una sorta di contratto, accordo di integrazione, entro 2 anni deve recuperare 30 punti comportandosi bene, non commettendo reati, imparando la lingua, imparando la Costituzione, iscrivendo i figli a scuola se ne ha, iscrivendosi al Servizio Sanitario Nazionale, insomma comportandosi e rispettando tutte le norme civiche e legali del paese che lo ospita, l'Italia. In questo caso, se fa tutto questo, alla fine dei 2 anni ottiene 30 punti e il permesso di soggiorno. Se non le ottiene, compie dei reati, li perde questi punti. Che ne pensate? Oggi il Sole 24 Ore mette 5 idee per uscire dalla clandestinità. È un mese dopo la rivolta di Rosarno. E che cosa ha fatto il Sole? Ha interrogato 5 esperti, da Michele Ainis, da costituzionalisti, professori della Bocconi come Carlo De Villanova, Marco Rovelli, scrittore, Marco Poggi, avvocato, e Ennio Codini dell'Università Cattolica, per capire come diminuire quell'esercito di 500.000 irregolari che ci sono ancora sul nostro territorio. Il nodo della clandestinità. Trovate le risposte, le proposte a pagina 11 del Sole 24 Ore. E poi invece, per quel che riguarda il nostro sondaggio, lo votate e poi su radio24.it e ne parleremo alle 8.30 in bianco o nero. Voglio tornare sul Messaggero, perché c'è un qualcosa di interessante che ha solo il Messaggero, riguarda la TV. Signori dirigenti televisivi, il catalogo è questo, studiatelo con attenzione, rimboccatevi le mani per fare una TV pubblica migliore. Dai cassetti delle scrivanie VIP di Viale Mazzini, il Messaggero ha estratto un volume di quasi 100 pagine, è il primo rapporto sulla qualità dei programmi televisivi, se ne parla da tanto, non più l'Auditel, ma la qualità, cioè il Qualitel. Vale a dire un sistema che si basa su un campione di 7.530 interviste a domicilio di un'ora ciascuna, un'utenza campione molto stratificata, che va a identificare e tracciare la qualità dei programmi, la qualità percepita, cioè non solo i numeri di ascolti, ma anche quello che la gente percepisce come di qualità maggiore rispetto agli altri programmi. Ebbene, in base a questi a questo Qualitel che il Messaggero ha tirato fuori un po' così, l'approfondimento informativo, sappiate che a 56 un programma raggiunge la sufficienza, a 67 è buono, con 78 è ottimo. L'approfondimento informativo vince Report, 78, ottimo, il voto più in alto in assoluto, il programma di Milena Gabanelli. Bocciata invece Lucia Annunziata, 51 con il suo In mezz'ora. Michele Santoro anche bocciato, 59. Ah no, la sufficienza è 56, 59, dunque appena sufficiente. Giovanni Floris un po' meglio, 63. Vespa, 60. Nell'attualità domina Fabio Fazio, 71. Ricordate, 78 è ottimo, dunque 71 è più che buono. Record negativo, 48 a 7 giorni Parlamento. Il Qualitel è interessante, volete vedere sul Messaggero quali sono i programmi promossi, quali bocciati, vedete un po'. A proposito di TV, io non lo so se voi avete visto, io l'ho fatto, l'ho trovata straordinaria, guarderò anche questa sera se ce la faccio, bimbi permettendo, la seconda puntata, C'era una volta la città dei matti. È questa fiction che ieri è andata in onda appunto in prima serata su Rai 1, in prima parte anche, su chi? Su Basaglia. Franco Basaglia fu l'uomo che rivoluzionò la psichiatria italiana, ha anche contribuito, come si dice in maniera molto sommaria, alla chiusura dei manicomi. Ieri la prima parte, oggi la seconda. E ci sono tantissimi articoli oggi che trovate sui giornali, perché vabbè, Franco Basaglia è un personaggio molto discusso, molto importante per la storia della psichiatria e anche molto dibattuto. Basaglia in TV, l'utopia dei matti. Umberto Galimberti che scrive in prima pagina di Repubblica: come faccio a sapere che malattia ha una persona legata in un letto di contenzione da 15 anni? Come faccio a sapere di cosa soffre un individuo a cui sono stati tolti, oltre ai suoi abiti, tutti gli oggetti personali in cui poter rintracciare una pallida memoria di sé? Inizia così l'analisi di Galimberti, tra l'altro prendendo spunto da uno delle frasi, da uno dei punti su cui Franco Basaglia cambiò proprio il proprio concetto di psichiatria, cioè dai manicomi che erano spesso, a volte, non sempre, ma anche dei lager di violenza, di soprusi, a un approccio diverso alla malattia mentale, un approccio diverso al malato di mente. Trasformare i pazzi in uomini, la bella rivoluzione va in TV, scrive Umberto Galimberti, mentre vi segnalo altrettanto netto ma critico questa volta è Marcello Veneziani in prima pagina sul giornale. Anche lui prende spunto ovviamente da Basaglia. Santificare Basaglia è vera pazzia. Marcello Veneziani scrive in tono polemico un editoriale e un'intera pagina sul giornale dal titolo Il fallimento dell'antipsichiatria, la loro abolizione, parla dei manicomi, insieme all'assurda teoria che la malattia mentale non esiste, ma è frutto dei rapporti di classe e delle condizioni socioculturali, come sostenevano i seguaci sessantottini di Lang, Basaglia e dell'antipsichiatria, produsse ferite e traumi giganteschi. Di tutto questo non si racconta nella lirica epopea di Basaglia e lo si santifica come un liberatore. Dunque molto duro invece Veneziani, che dice: io vengo da Bisceglie, città dei pazzi, e vidi quante tragedie produsse la legge 180, quella che chiuse i manicomi. Insomma, il tema è bello, ma guardate stasera la seconda parte, se non avete visto la prima, su Rai 1, perché è davvero molto molto bella. C'era una volta la città dei matti. Abbiamo fatto anche pubblicità su Rai 1. Bene, ci fermiamo qui. Votate il sondaggio, ora GR24.